giorno dei banchetti di sabato 22 aprile, una giornata interamente dedicata al festeggiamento del 25 aprile, ma con l'organizzazione di piazze tematiche, con l'organizzazione di una critical mass, con diverse iniziative. Ci spieghi un po' cosa succederà oggi? Allora, in particolare questo è il banchetto dei Corsari, che è l'associazione che gestisce il centro sociale Barattolo qua a Pavia da almeno 6 anni, e così abbiamo avuto l'idea per quest'anno di organizzare una festa diversa per celebrare il 25 aprile, che andasse anche un po' oltre il solito ricordare gli avvenimenti della Resistenza. Quindi abbiamo chiesto a tutte le associazioni che fanno vivere questa città, il commercio equo, i gruppi di acquisto solidale, le donne contro la violenza, qualsiasi gruppo che fosse attivo in città e che avesse in mente un'idea di città diversa, gli abbiamo chiesto di partecipare scendendo in piazza e portando i propri contributi, i propri materiali. E oggi la giornata si svolge così, appunto, su due piazze tematiche piene di iniziative di musica e con una critical mass che unisce un po' questi due momenti della giornata, ripercorre le tappe che a Pavia hanno segnato le lotte della resistenza per la liberazione della città e finisce in Piazza Vittoria con un aperitivo finale, musica, concerti, e c'è anche il sole, quindi deve essere una bella giornata per forza. Qua sul banchetto c'è questo bellissimo librettino sulle droghe, l'avete fatto voi? Sì, è un vademecum, è diciamo la seconda versione, edizione che abbiamo fatto, la prima risaliva qualche anno fa, e tratta un po' di tutte le droghe per conoscere un po' meglio le varie sostanze, e in particolare contiene anche le nuove tabelle della legge Fini, insomma per un, come dire, un approccio alle droghe che sia fatto di conoscenza, non di pregiudizi, per capire davvero quale può essere un utilizzo di certe sostanze in un'ottica non di, così, di repressione, ma di conoscenza. E altre cose che abbiamo oggi qua sul nostro banchetto di materiali nuovi, abbiamo questo schegge Corsare delle ragazze del collettivo Corsari, che cos'è? Diciamo un po' di spunti di riflessione, qualche testo scritto da noi, dalle ragazze dei Corsari, appunto, così per avere una prospettiva di genere che spesso manca sulle tematiche anche di movimento, della politica, della condizione della donna in generale. Abbiamo fatto un lavoro così di gruppo durante queste ultime settimane, non è particolarmente approfondito, però speriamo che sia un punto di partenza per riuscire a costruire un progetto più articolato sulle tematiche di genere, soprattutto anche perché quest'anno, dopo la grande spinta della manifestazione del 14 gennaio, abbiamo visto che qualcosa si può veramente muovere in questo senso e ce n'è bisogno, perché anche all'interno dei movimenti, dei centri sociali, delle zone comunque di resistenza che esistono nelle nostre città, spesso manca un approfondimento, una visione che sia dalla parte delle donne, non solo generalistica. Poi questi volantini, questi sono bellissimi, con San Precario, 0 lire istruzione, 100 lire lavoro precario, tilt stasera. E questi sono delle banconote di San Precario che abbiamo fatto già dall'anno scorso più o meno, in preparazione della May Day, e così ritraggono un po' la situazione di quello che è il giovane medio di Pavia, che si trova a dover uscire la sera e a dover pagare una birra a 4 euro se non 5, non sapere cosa fare la sera, un lavoro precario, l'istruzione che costa troppo, i libri costano troppo. Allora abbiamo fatto queste banconote con appunto il titolo dell'argomento e dietro delle domande, come ad esempio quanto paghi le tasse universitarie, e il link ad un blog che speriamo scopri un po' di commenti dalla gente, così per... Ah sì, c'è il blog vitaprecaria.splinder.com, bellissimo. Esatto, e così in preparazione della May Day speriamo che la gente intervenga e racconti le proprie storie, comunque intende intento è aggregare le persone su delle tematiche che raccontino la loro realtà. Quindi da Pavia verrete a Milano per l'Eurome Day? Sì, verremo a Milano e speriamo appunto di riuscire a collaborare anche, abbiamo dei contatti con gli altri ragazzi che stanno costruendo la May Day appunto